Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Da questo sabato inizia la versione estiva di Essere e Avere. Vi terremo compagnia con quello che noi chiamiamo il meglio di della stagione, una selezione dei temi e dei contributi sui quali abbiamo concentrato le nostre riflessioni in questi mesi. In questa puntata torniamo a parlare di acquisti predittivi. Sapete di cosa si tratta? Di acquisti previsti per noi, in pratica da qualcun altro, qualcuno che ha tutto l'interesse a farlo, ovviamente, perché giocare d'anticipo per i colossi dell'e-commerce sarà la chiave vincente e Amazon, ecco svelato il protagonista di questa notizia, ci sta già pensando. Sono già realtà invece i pagamenti via tweet, prodotti in cambio di condivisioni, solo una delle strategie del social retailing, l'altro tema che abbiamo scelto per questa puntata. Focus sui trend dedicato invece alle singular women, donne protagoniste del cambiamento e di nuovi modi di vivere e consumare, e in chiusura ripercorriamo le tappe principali del nostro viaggio alla ricerca dell'Italian Fund. Oggi parliamo di Made in Italy e relazione. La borsa della spesa. Non ho visto il tuo regalo. Questo perché non gliel'ho comprato? Perché no? Non chiederglielo. L'intera istituzione dello scambio di regali non ha alcun senso. Troppo tardi. Mettiamo che io esca e spenda $50 per un tuo regalo. Sarebbe un'attività laboriosa, perché dovrei immaginare cosa ti serve. Mentre tu sai già cosa ti serve, potrei semplificare la cosa dandoti i $50 direttamente, e tu potresti darmene 50 al mio compleanno e così via, finché uno di noi morirà, lasciando l'altro più ricco di $50. Quindi ti domando, ne vale la pena? Interessi, gusti, wishlist, preferenze e previsioni d'acquisto. Disarmante la tesi di The Big Bang Theory, stupefacente quella di Amazon, che si è inventata le consegne predittive. Il colosso dell'e-commerce ha depositato il brevetto di un sistema che gli permetterebbe di iniziare la spedizione di un prodotto ancora prima che sia stato effettivamente acquistato, prima cioè che il consumatore abbia cliccato sul tasto compra. Con Anticipatory Shipping, questo è il nome del sistema, grazie ad un sofisticato algoritmo, Amazon invierebbe in anticipo al centro di spedizione più vicino i prodotti identificati in base alle preferenze e abitudini di acquisto dei clienti, per poi completare il tutto con i dati dei clienti finali. Risultato: accorciare i tempi di consegna che, si sa, scoraggiano l'acquisto di merce online. Del potere predittivo di internet si è già detto e scritto a proposito dei terremoti, per esempio, perché su Twitter le notizie viaggiano più veloci di quanto non facciano le onde sismiche nelle zone più lontane dall'epicentro. A proposito dell'andamento di borsa, una ricerca scientifica pubblicata su Nature sostiene che il numero di pagine economiche visitate su Wikipedia aumenta prima del calo dei mercati e diminuisce nelle fasi di rialzo. Perché prima di vendere, dicono gli esperti di economia comportamentale, i risparmiatori si informano. Ecco allora che questa notizia sulle consegne predittive rivela molte cose sul mondo dell'e-commerce e le sue linee di sviluppo. Ne abbiamo parlato con un esperto, Andrea Boaretto, che insegna marketing multicanale al Politecnico di Milano. Amazon vuole giocare una partita molto importante sul tema del commercio, del retailing, quindi del commercio al dettaglio, e sta sfruttando tutti gli asset. L'asset principale da sempre è stata la sua piattaforma, non tanto come catalogo di offerta, ma sul fatto che conosce ogni comportamento del consumatore. Esistono ora software chiamati di predictive analytics, tali per cui possono consentire, in relazione al click, al comportamento fatto o alle esplorazioni, di poter prevedere degli oggetti di nostro interesse, e quindi poterceli mandare vicino a casa nostra. Sarà poi compito loro di poter stimolarci in chiave marketing a quell'acquisto stesso, o addirittura si vocifera anche possibilità di recapitarceli direttamente a casa come regalo. Per dirla male, una volta esisteva un'esperienza come il club degli editori, ma lì ci inducevano strane scelte, qui Amazon ci conosce in profondità. Addirittura tra i parametri, insomma, gli oggetti sui quali indugia il mouse, la wish list. Questo la dice lunga sul livello di profilazione del consumatore al quale siamo arrivati. Esattamente, ma addirittura non è ancora stato dichiarato, ma ci si potrà immaginare, non sarà solo un'interazione che noi immaginiamo di persone dal proprio computer, ma un ruolo sempre più importante hanno anche i tablet, hanno anche lo smartphone, e quindi questa profilazione addirittura cross-mediale porterà veramente Amazon ad avere una serie di informazioni che possono anche quasi farci paura. Le strutture molecolari di Einstein e della macchina sono completamente intatte. Allora dove diavolo sono? La domanda giusta è quanto diavolo sono, capisci? Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo. L'ho mandato dentro il futuro. Prima di tutto devi scendere e cambiarti i vestiti. Proprio adesso, ma sta diluviando. Aspetta altri 5 secondi. Come da programma, veramente stupefacente. Peccato che l'ufficio postale non sia efficiente come servizio meteorologico. È una notizia indice anche della velocità di espansione del settore dell'e-commerce. Sì, qui siamo di fronte, diciamo, a ritmi di crescita non banali per quanto riguarda l'e-commerce, anche in Italia, di fatturato, ma soprattutto di velocità dell'innovazione e di innovazione dei modelli di business. Soprattutto qui il mio messaggio riguarda le aziende, i retailer, che non possono ignorare questi fenomeni, già li vedono con paura, devono soprattutto capire anche loro come far leva sui dati che loro stessi raccolgono dalle carte fedeltà, dagli stessi siti internet, dalle applicazioni mobile, ma che non sempre vengono visti in logica di analisi integrate e predittive dei comportamenti dei clienti. Impossibile ormai parlare di e-commerce senza parlare di mobile commerce. Molti e-shopper anche in Italia comprano via smartphone, appunto, o via tablet. Voi recentemente avete diffuso i dati dell'osservatorio Mobile Marketing and Service, appunto, del Politecnico di Milano. Che cosa dicono questi dati? I dati ci dicono che non è solo un tema di acquisto, per cui al momento il fatturato generato dal mobile in senso di smartphone parliamo di 500 milioni di euro, quindi dati in crescita fortissima ma ancora piccoli sul totale mercato, ma il ruolo che il mobile ha nella fase di informazione a supporto degli acquisti. Consideriamo che in Italia abbiamo oltre 24-25 milioni di persone che ogni mese utilizzano lo smartphone per navigare, e lo smartphone viene utilizzato nel processo d'acquisto. Per fare cosa? Non solo per informarsi, ad esempio il 42% confronta i prezzi o segnala gli acquisti ai propri familiari, ma soprattutto un tema molto importante è il mobile coupon, quindi la possibilità attraverso il cellulare di trovare sconti, promozioni o ricevere anche buoni sconti stessi da erogare poi quando va a fare la spesa. Nelle fasi di decisione di acquisto il mobile viene usato anche all'interno dei negozi fisici. Esattamente, questa è secondo noi la vera innovazione del mobile, quindi mentre l'internet da PC veniva vista come un'esperienza a parte, il mobile è un integratore di mezzi e annulla le distanze tra fisico e tra virgolette digitale o virtuale. Le persone nel punto vendita possono confrontare prezzi, possono addirittura però chiedere opinioni di altri utenti attraverso le recensioni. Allora qui il ragionamento è: se i retailer vogliono far leva su questo fenomeno o se lo vedono come una minaccia. Per ora è sempre vista come una minaccia, ma ci sono alcuni casi in cui addirittura le app stesse dei punti vendita sono fatte nell'ottica di arricchire le informazioni ai clienti, dare la possibilità di avere recensioni di altri utenti, nonché avere buoni sconto solo per il possessore dell'app. Una volta entrati in negozio, quindi geolocalizzati? Allora, la geolocalizzazione è un tema che deve ancora avvenire. Si parla di tecnologie futuri o futuribili di indoor positioning, in cui addirittura posso guidare il consumatore all'interno del punto vendita nel trovare il prodotto di cui ha bisogno. La geolocalizzazione può essere fatta se è il cliente stesso che segnala posizione, nonché se il cliente si connette con la Wi-Fi del negozio. A quel punto il gioco è fatto. Mi piace. Posta commento. Scrivi un messaggio. Condividi filmato. Tagga una foto. A cosa stai pensando? Commenti. Segnala evento. Resta collegato. Rispondi al messaggio. Inizia a chattare. Suggerisci amici. Da social shopping al social retailing, parliamo di pay per tweet e web co-creation. Codice a barre di Cristina Lazzati. Il social retail fa sempre più adepti, infatti sono sempre più frequenti le iniziative che si ispirano a post e conversazioni sui social. È il caso della catena discount americana Target che, cavalcando il trend che vede ogni giorno su Pinterest, il social di condivisione di immagini, oltre 700.000 pin che ruotano nel mondo del party planning, ha deciso di lanciare 3 collezioni sul tema in collaborazione con 3 top pinners. Mentre Marc Jacobs per il suo nuovo profumo ha aperto un temporary store a New York, il Daisy Marc Jacobs Tweet Shop, dove si paga in posta sui social network, più viralizzi la novità, più acquisti puoi fare. Ancora abbigliamento, seppure più fast e meno lusso, ma pur sempre social per Chiabi, che da tempo ha creato uno scaffale con la selezione dei prodotti che collezionano più mi piace su Facebook, e da poco ha lanciato Chiabi Connect. Come funziona? Attraverso un social scan il cliente ha accesso a una serie di informazioni, social ovviamente, riguardanti il prodotto, dai numeri di likes ai commenti di chi lo ha già comprato. Inoltre lo può fotografare e condividere con gli amici su Facebook, così da poter ricevere in tempo reale un consiglio. E se gli amici non bastano, è possibile anche avere un fashion coaching per sconfiggere qualsiasi dubbio. Infine, il nuovo caffè Illy Samsung di Regent Street, dove social e socialità si mixano in un connubio postmoderno decisamente avant-garde. Essere e avere. Sì, è tornato il portapranzo, completamente ripulito. Ripulito? Sì. Com'era il pranzo oggi? Buono, come sempre, il cavolfiore era davvero buono. Sì, il mio portapranzo è andato a qualcun altro. Grazie per aver spazzolato il pranzo di ieri. Per qualche ora ho pensato che la strada del cuore fosse davvero attraverso lo stomaco. Mio marito è tornato a casa ieri sera tardi. Non ha detto una parola. Focus sui trend. Schiscetta, lunchbox, nell'omonimo film appena citato, una delle abitudini, simbolo di nuovi di stili di vita all'insegna della praticità, del risparmio, della genuinità, della sostenibilità. Trasversale per fascia sociale ed età, al centro di una vera e propria mania sui social network, è un'abitudine pensata e praticata da quasi 8 milioni di italiani, secondo un'indagine Coldiretti Censis, soprattutto donne. Questo è lo spunto per noi per parlare di Singular Women, uno dei gruppi generazionali che guida il cambiamento verso modelli più sostenibili, ispirando nuovi modi di fare shopping, fare la spesa, viaggiare, influenzando dunque la distribuzione, il retail, la pubblicità, il marketing, i consumi culturali anche. Ne parliamo con Linda Gobbi di Future Concept Lab. Linda, ben ritrovata. Ben ritrovata a te, Maria Luisa, ben ritrovati a tutti. Iniziamo dalla definizione. Chi sono queste donne? Le Singular Women sono donne mature, di età tra i 40 e i 55 anni, ed è importante sottolineare la definizione singular, che non significa donne single, sole, ma donne singolari. Sono al centro e protagoniste della famiglia, della comunità dove vivono, sono presenti nel territorio, sono spesso legame tra gli individui, la famiglia e la comunità di appartenenza. Sono singolari per carattere, alla ricerca, come hai anticipato, di autenticità, cose vere, reali, concrete, diciamo all'essenziale della vita. L'evoluzione di questi ultimi anni le ha viste davvero protagoniste, grazie anche allo sviluppo delle nuove tecnologie. Non sono più, grazie anche alla tecnologia, né semplicemente casalinghe, responsabili acquisto che girano nei supermercati a trovare l'offerta migliore per la famiglia, né semplicemente donne in carriera. Sono e e la ricaduta nel mondo del consumo, qual è stato per questo loro punto di vista decisamente etico, ma che unisce all'etica anche all'estetica? Grande ricaduta nel mondo e nella filiera green della sostenibilità. E poi anticipavi, il mondo della distribuzione è stato travolto dal pensiero, da questa impronta femminile che ha imposto ad esempio nuovi orari, nuove aperture più lunghe, una molteplicità di servizi all'interno dello stesso punto vendita, hanno imposto ad esempio, perché non sono più loro ad fare i piccoli lavori di cucito, le grandi catene della piccola sartoria. I grandi esempi vengono dal mondo fair, l'abbiamo già anticipato, a questo gruppo di donne è molto caro tutto il tema della filiera corta, del fai da te, della sostenibilità. Un esempio molto bello, a cui siamo molto affezionati noi di Future Concept Lab, è una startup proposta da Kavita Parmar, che ha passato grande parte della sua precedente carriera come fashion designer, anche per importanti case di moda, da Ralph Lauren a Donna Karan. Le sue origini indiane le hanno riportata in India a rivalorizzare l'artigianato locale, in particolare il tessuto madras, ha scovato artigiani che tessono ancora a mano, ha proposto questi tessuti a dei creativi, ai distributori che elaborano proposte di moda, e queste proposte vengono vendute attraverso l'e-commerce. La sua startup oggi è già avviatissima, si chiama Yo, We, You, Io, Noi, Tu, perché fa vedere un io, il singolo artigiano, un noi dei costruttori di moda e tu, il pubblico finale che compra quella camicia, quei pantaloni, quel manufatto, e mette altrettanto la sua faccia sul sito. Un altro esempio molto interessante a proposito di cibo, che è stato il grande territorio occupato dalle donne, le più grandi blogger di food sono donne, è un progetto che è nato a San Francisco e propone un distributore automatico di insalate fresche. Farmers Frigo è un distributore automatico, alle 5 di mattina dei contadini raccolgono verdure fresche, entro le 10 sono proposti in vasetti di plastica riciclabili e tutti i cittadini li comprano. Naturalmente alla sera tutto quello che non è più fresco viene ritirato e distribuito a chi ne ha più bisogno, nulla viene distrutto, perché questo è un altro principio del pensiero femminile. Il non spreco è al centro della loro attenzione. Un altro progetto molto interessante di comunicazione arriva dal mondo della moda. È un progetto di Miuccia Prada, anche lei una apripista per le singular women. È una piattaforma creativa, propone una serie di cortometraggi tutti al femminile, le registe sono donne internazionali, si parla di donne, ci sono voci femminili e si celebrano con questi corti una molteplicità di ruoli al femminile con molta poesia. Queste donne hanno un ruolo fondamentale in questa contemporaneità, sono naturalmente madri di giovani figlie, di figlie anche adulte, sono figlie a loro volta di genitori anziani di cui se ne prendono cura, a volte per l'allungamento della vita sono nonne contemporaneamente, quindi hanno in mano queste donne un testimone scottante. E per questo sarà importante dare voce a queste donne e sostenerle in tutti i loro progetti di network. Uno di questi è un progetto Expo Milano 2015, è un progetto che ha nel nome il ruolo e la testimonianza delle donne, si chiama We Women for Expo, in collaborazione col Ministero degli Affari Esteri e con Fondazione Mondadori, e l'obiettivo è proprio molto ambizioso, di dare vita a un network di donne di tutto il mondo attraverso che cosa? Le loro ricette. come per il film Lunchbox, racconti, esperienze creative, esperienze ed espressioni di amore donate ad Expo attraverso una ricetta. Italian Factor. Siamo alla consueta riflessione finale, lo spazio che dedichiamo all'analisi, alla visione strategica del nostro ospite fisso all'insegna dell'Italian Factor, appunto, il nostro manifesto a puntate alla ricerca degli elementi su cui giocare la scommessa della ripresa, il nostro acceleratore del Made in Italy, come l'abbiamo definito più volte. Francesco Morace, ben ritrovato. Grazie a voi, buon pomeriggio. Siamo all'ultimo degli 8 fattori potenziali. Qual è quello di oggi, Francesco? Quello di oggi è un fattore davvero trasversale, è la relazione, no? In questi ultimi anni tanti hanno parlato, hanno anche scritto di marketing relazionale, di management relazionale, di empatia. Ecco, la relazione intesa come rapporto profondo, anche interpersonale, è una qualità che ci appartiene profondamente. Quindi l'Italia è un paese relazionale e peraltro una relazione anche tra le diverse generazioni e non solo tra i simili. Quindi su questo sono convinto che si possa fare un grande lavoro. Questa relazione generazionale in Italia, tu lo scrivi nel tuo libro Italian Factor, appunto, un libro che è maturato parallelamente a queste nostre chiacchierate del sabato, Francesco. Tu scrivi: questa relazione finisce con l'ingabbiare i talenti, penso alle donne, ai giovani, quindi vanno liberati. Vanno liberati e qui davvero dobbiamo essere più convinti di noi stessi e non seguire le indicazioni sempre molto schematiche che ci arrivano dal management anglosassone, dove la relazione è prevista solo seguendo alcune logiche, alcuni canali di affinità. Il mondo in Italia è un mondo di rapporti personali tra le generazioni, tra i generi, e quindi dobbiamo recuperare questa ricchezza e dobbiamo renderla il concime che fertilizza anche le attività delle aziende. Grazie a Filippo Aureggi in regia, ci risentiamo sabato prossimo alle 16.30 come sempre con il meglio di della stagione di Essere Avere. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.